Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata quanto mai particolare, lo dico subito. Allora, chiaramente, come ricordava anche Gigi Donelli, appena vi sarà la conferenza stampa dalla Regione Lombardia per fare il punto su quello che è successo a Codogno in provincia di Lodi e soprattutto anche i casi e la gestione dei casi, la trasmetteremo in diretta e ci collegheremo anche con la nostra inviata Rosanna Magnano, poi c'è la nostra Raffaella Calandra che sta raggiungendo Codogno. Dico puntata particolare perché, come ampiamente annunciato ancora a dicembre e poi sul sito del programma e della radio, la classifica, la poco invidiabile classifica della settimana di oggi, verrà fatta da un personaggio che a mio avviso ha anticipato la classifica con i vari ruoli che ha interpretato nel cinema e non solo, anche in televisione. Mi riferisco ad Antonio Albanese, che saluto subito. Buonasera Antonio. Buonasera a tutti voi, grazie, per me è un onore comunque. Sì, io avrei preferito una giornata leggermente. Assolutamente sì. Ci aiuti Pindaro oggi, però diciamo così, la vita va avanti. Adesso tu, nervi saldi, vediamo cosa succede, il contenimento e quant'altro. Darò qualche notizia anche di carattere economico sull'impatto che già c'è stato dal coronavirus. La classifica è tutta appaltata gratis, subappaltata ad Antonio Albanese, e non devo ricordare i suoi personaggi perché insomma hanno anticipato, ripeto, in tempi non sospetti, quello che poi noi raccontiamo. E devo dire, Antonio, che delle volte la realtà supera anche la fantasia. Beh, assolutamente, per noi comici ormai noi siamo quasi dei gladiatori, perché è veramente difficile, perché diventa quasi banale. Adesso ci sono delle situazioni, dei racconti che tu in questi ultimi anni così comunque hai raccontato e hai esaltato, che sono, sfiorano la comicità, ma vanno ben oltre, che c'è proprio una rabbia quasi impetuosa che ti scatta, perché ci sono delle situazioni incredibili. Volevo, se mi permetti, augurare buon lavoro a tutte quelle persone che oggi stanno monitorando in quella zona questo orribile fastidio, che dobbiamo comunque con attenzione guardare, osservare. Questa è una giornata un po' curiosa, però sono tutti molto molto bravi. Allora, dicevo, la vita, no, grazie, e mi accodo a te, ringraziamento a tutti quelli che stanno lavorando. È stata, sapete, chiusa tutti i negozi, tutte le attività a Codogno, anche a casa del Pusterlengo. Sì. Adesso, ripeto, nervi saldi, andremo a darvi le informazioni in diretta, però la vita va avanti, cerchiamo anche di respirare, perché insomma è venerdì, cerchiamo di respirare col coronavirus, è di una comicità involontaria, e già partiamo con la prima cavolata di questa difficilissima per me diretta, perché alternare, diciamo, il lato tragico ma anche ironico della nostra classifica con le notizie serissime che arriveranno non sarà facile. Comunque, certo. Partiamo già con la quinta. E no, aspetta, mi fai fare le notizie in breve, tanto ci metto poco oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, vedo già che alcuni ascoltatori dicono: un saluto, accetto uno di noi, qualcuno vuole la scena della fattura. Sì, ce l'abbiamo la scena della fattura, abbiamo tutto, andiamo con calma adesso. Allora, per quello che riguarda gli Stati Uniti, scende a 50,8 punti il dato sull'andamento del settore manifatturiero, sotto le stime, e questo in qualche modo fa il paio con una notizia non bella. Purtroppo oggi notizie belle è difficile trovarle. Mi riferisco al mercato dell'auto in Cina. Allora, vi do la cifra delle auto immatricolate in Cina, sapendo che è un paese da 1.400 milioni di abitanti. Allora, le auto vendute in Cina nella prima settimana del mese di febbraio sono state 811 in tutta la Cina. Il crollo delle immatricolazioni è del 96%, ma non serve neanche la percentuale. Se tu immagini che in tutta la Cina in una settimana hanno venduto 811 auto, si capisce che il mercato è praticamente fermo. Mi stanno scrivendo molti ascoltatori che lavorano nella meccanica di precisione, nella subfornitura meccanica, la componentistica auto, preoccupatissimi da un lato per il mancato arrivo di pezzi, diciamo, di manufatti dalla Cina, di semilavorati ma non solo, di componentistica, dall'altro per andamento del settore auto. Poi oggi, venendo alle notizie europee, il Premier Conte ha detto che siamo lontani, per quello che riguarda l'Unione Europea, da un compromesso sul bilancio. Orban, il leader Orban, il leader ungherese, ha detto siamo lontani da ogni possibilità di intesa. Anche Orban vuole un budget più alto, 1,3%. Il premier danese ha escluso un accordo nel weekend. Il premier romeno ha detto che sarà probabile, ma anche a mio avviso, un nuovo summit. Per quello che riguarda lo spread, siamo a 134 punti. L'inflazione, il dato di oggi, gennaio, stabile allo 0,5%. Non bello invece, e purtroppo non è una notizia nuova, il dato sul fatturato industriale. Nel 2019 ha fatto meno 0,3%, gli ordinativi meno 1,9%, però c'è stato un rimbalzo, le cerchiamo oggi le notizie positive, a dicembre più 6%, gli ordinativi più 1 su dicembre 2018, più 1,5 sul mese. Anche se a dicembre gli ordinativi sono un indicatore che anticipa poi il fatturato invece a dicembre è sceso meno 3%. Due notizie in breve ancora, mi riferisco da un lato a Air Italy, perché Qatar Airways ha detto di non essere più interessata a investire. Nel giorno in cui la ministra dei trasporti Paola De Micheli ha firmato il decreto di proroga al 31 dicembre 2020 dei voli di continuità territoriale tra la Sardegna e la penisola, quelli che sarebbero scaduti il 16 di aprile. Per quello che riguarda invece, e quindi verrà garantita la continuità territoriale. Poi il ministro De Micheli, per quello che riguarda la concessione autostradale ad Autostrade per l'Italia, ha detto che siamo disposti a valutare le proposte dell'ASPI, ma non a tornare indietro. La decisione finale sarà ispirata all'interesse pubblico e non sarà un'operazione di consenso. Le nomine oggi, il viceministro del MISE Stefano Buffagni, alla domanda se Claudio Descalzi verrà riconfermato all'ENI, ha detto serve forte discontinuità all'ENI nella governance. Poi segnalo, prima che ci porta direttamente nella classifica, segnalo, non è spreco di denaro pubblico, però speriamo non serva denaro pubblico. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone indagate per la bancarotta di Technis SPA, una delle principali aziende italiane di costruzioni. Hanno effettuato sequestro di beni per un valore complessivo di 94 milioni. Gli arresti domiciliari nei confronti dei 4 sono stati disposti dal GIP di Catania. Secondo l'accusa, i vertici di Technis SPA avrebbero messo in atto ripetute condotte illecite nella gestione dell'azienda. Sono stati arrestati gli imprenditori Mimmo Costanzo e Concetto Bosco, sono tra i 4 appunto, 3 degli indagati posti ai domiciliari. Costanzo e Bosco in passato erano stati posti agli arresti domiciliari dal 22 ottobre del 2015 al 22 marzo del 2016 per corruzione turbativa nell'ambito di 2 inchieste della Procura di Roma. Si chiamavano Dama Nera 1 e Dama Nera 2 su presunte tangenti all'ANAS. Allora, dunque, guardi, dico subito a un ascoltatore, però non iniziamo, già la giornata è difficile. Allora, che dice, che battuta idiota, non c'è niente da ridere sul virus, siete pappagalli del regime comunista. Senta, abbia pazienza, lei sicuramente deve farsi controllare per altre cose prima ancora che la temperatura. Ho detto semplicemente che in una giornata già obiettivamente non leggera, cerchiamo di andare avanti e di continuare, la vita va avanti lo stesso. Abbiamo la nostra classifica che è in chiaroscuro perché fa ridere e anche piangere, e daremo tutti gli aggiornamenti del caso. Nervi saldi, e allora si dia inizio alla classifica, al nuovo conduttore, qualcuno dice prenderà il suo posto, guardi, cioè, la vita è lunga, andiamo. Dobbiamo reagire comunque, in un modo o nell'altro dobbiamo reagire, quindi ricavare un po' di energia, non so da dove, comunque ricavarla. Allora, la classifica. La classifica della settimana. Allora, la classifica della settimana, la scelta tutta, e noi abbiamo dato i casi come sempre che troviamo, la scelta tutta Antonio Albanese. Io mi metto in disparte, parti dal quinto posto. Dal quinto posto, trattasi di Se Gesta del teatro, ho avuto l'onore di lavorare, uno dei teatri delle arene più belle del mondo, secondo me, e hanno arrestato il vice comandante dei vigili di percorruzione, Rafik Il Multe, per favorire un parcheggio privato. Quindi in questo incantevole parco archeologico di Se Gesta si era organizzato questo, praticamente parcheggiare costa caro da un po' di tempo perché c'era un parcheggio privato e quindi parcheggiare all'esterno costava carissimo perché si dava la possibilità a questi, come dire, non si sa, noi siamo un paese e solo in questo paese noi siamo stati quelli che abbiamo inventato la commedia dell'arte, e solo noi, perché ce l'abbiamo proprio nel DNA anche un po' questo. Quindi si parcheggiava carissimamente fuori perché c'era un parcheggio interno privato e si dava la possibilità di parcheggiare solo lì, e il parcheggio era di amici, eccetera eccetera eccetera. E tra l'altro davano anche raffica di multe per favorire, io tra l'altro sono stato recentemente a Se Gesta, anch'io ho notato questa cosa, non avevo capito che fosse, ma venivano date le multe dallo stesso vicecomandante dei vigili a chi parcheggiava in modo che tu fossi obbligato ad andare nel quello privato di amici e parenti. C'è questo... anche un oggetto dello scambio però in questo parcheggio, perché come sempre la nostra classifica ci ha abituato che in cambio cosa aveva il vicecomandante dei vigili, in cambio avrebbe avuto l'assunzione di 4 familiari dell'ispettore della municipale, esatto, che erano loro ad occuparsi del parcheggio. È sempre, esatto, la famiglia, Antonio, che inguaia le persone, sesso o la famiglia. Quarto posto. Quarto posto. Questo mi fa ridere, cioè, Roma, analisi mediche gratuite a amici e parenti, 141 indagati al grasso di oggi, ma non 3, 141, una popolazione, sono 141 tra medici, paramedici, dipendenti dell'ospedale Grassi di Ostia, denunciati all'autorità giudiziaria e finanziaria del comando provinciale di Roma per aver permesso ad amici e parenti di eseguire accertamenti diagnostici completamente gratuiti senza seguire le ordinate liste di attesa. Questo è. E l'ospedale, appunto, il Grassi di Ostia, e i militari, la Guardia di Finanza, ha proceduto a un meticoloso esame dei tabulati relativi alle prestazioni erogate e raccolta delle testimonianze. Insomma, 141 fa veramente impressione, perché delle volte noi abbiamo in classifica praticamente più della metà dei dipendenti, sì, esatto, a usufruire della corsia preferenziale, capirai. 523 tra parenti e amici dei medici e infermieri, questi ultimi a loro volta beneficiari del sistema illecito. Vabbè. Quindi cosa ci può dire? Certo, la qualunque è un moderato, ormai è diventato un moderato, e questo è il fatto. Per quello un po', come dire, il suo percorso è un po' finito, perché è stato superato, eccetera, eccetera. Allora, continuate a chiedermi, vabbè, facciamo sentire adesso la scena della fattura, perché non posso andare avanti con le richieste al 349-238-6666. Tra il quarto e il terzo posto, molti ascoltatori mi segnalano che una scena che a loro è piaciuta particolarmente, devo dire, viene meglio in televisione, perché c'è quell'attesa modello western, il silenzio che si spande, certo, sì, nelle spiagge, in tutti i locali dell'area, quando era un finanziere, era un capitano di polizia, dei carabinieri, dopo aver pranzato in riva al mare, in un bagno, in uno stabilimento balneare, fa una cosa, diciamo, del tutto eretica, devastante, rottura di paradigma, rivoluzionaria. Signor, gentilmente mi fa la ricevuta fiscale. La ricevuta. Non c'è problema, Carmelo. Un'intera comunità per questo. Allora, ti racconto, a proposito di illeciti e tutto, ti racconto un aneddoto per raccontarti com'è anche un po' il nostro paese. Il film Qualunque Mente, che denunciava, io volevo in un modo o nell'altro raccontare questo e quell'altro, viene presentato a Berlino, va al Festival di Berlino. A un certo punto presentiamo al Festival di Berlino questo film, silenzio, durante il film c'è una sorta di strano silenzio, fino alla fine, con grande, grande applauso. Allora parte una sorta di dibattito, prende la parola un tedesco amante del cinema italiano, comunque dell'Italia, del nostro paese, e sono un po' tutti, perché è il paese più bello del mondo, e dice, io gli dico, bene, mi dica, e lui mi guarda serio e mi dice, non ho mai visto niente di più drammatico. Ed è sempre stato considerato un film comico, quindi questo è molto interessante. Cioè, questo è molto Qualunque Mente è un film drammatico in Germania. Io lo trovo spaventosamente drammatico nel paese anche in dello, Italia. Dello Schwarz null, dello zero deficit, è chiaro che l'ironia. Sì, e meno male che non ha sentito la classifica, quella è fiction. Quella sì, è fiction. Qua purtroppo sono notizie vere. Non stanno benissimo neanche loro, comunque. Vabbè, per altri motivi. Allora, Antonio, al terzo posto della classifica, vai. Palermo, sfilate e cortei al centro, la Protezione Civile consiglia di controllare i balconi, tutti i balconi e tutti i cornicioni. Controllate balconi e cornicioni, non affollatevi in terrazzo e non sporgetevi con oggetti che possa cadere. Quindi la sfilata è stata organizzata perché è stato consigliato. Non appoggiatevi. Non... Adesso io non posso perché far battuta sul coronavirus. E tutti i cornicioni sono distrutti. Quindi c'è una sorta di. Sono le vie centrali di questo paese dove sono praticamente le terrazze e tutti i cornicioni non si possono usare. Questo consigliava allora, questo. Adesso non voglio fare nessuna battuta, se no l'ascoltatore mi riprende. Però, mentre insomma, gli dire non state chiusi in casa, ahimè, è argomento di estrema attualità e emergenza. Qui la cosa è pazzesca. Cioè, la Protezione Civile ha proposto un'ordinanza sindacale per tutelare l'incolumità pubblica in vista della sfilata mascherata di Edu Carnival del 23 febbraio e della giornata della memoria di Libera il 21 marcio. Tutti i proprietari. No, leggimi l'ordinanza, leggimi, serio tutti però, i proprietari, i residenti e gli amministratori di edifici dovranno effettuare un controllo preventivo sulle condizioni di balconi, cornicioni, intonaci per evitare possibili danni a persone e cose. E sarà anche vietato sporgersi con oggetti che, cadendo, possono arrecare danni. Né ci si potrà affollare sul balcone che non sia stato revisionato con certificati rilasciati da personale tecnico. Tutto questo, come dire, per rallegrare l'animo di chi vuole seguire un corteo, ma anche felice di chi sta sotto, perché a me soprattutto viene in mente chi sta nel corteo. Allora, tutte le zone sono tutte le assi principali del centro storico di Palermo, assolutamente le vie più belle di una delle città più belle del mondo: Piazza del Parlamento, Corso Vittorio Emanuele, Via Roma, Via Cavour e la stessa piazza di fronte al Teatro Massimo. Per la giornata della memoria invece il corteo è un po' diverso: il Foro Umberto I, Corso Vittorio Emanuele, i quattro canti di città, via Macheda, via Ruggero VII, piazza Ruggero VII, piazza Castelnuovo e Turati, tutte zone interessate negli ultimi anni da crolli di calcinacci con diversi balconi messi in sicurezza. Nell'ordinanza si fa anche un esplicito riferimento agli articoli del codice penale che riguardano il getto pericoloso di cose, il crollo di costruzioni, l'omissione di lavori di edifici e il delitto colposo di danno. Ora, io non penso però che il proprietario o l'affittuario dell'appartamento ha voglia che gli crolli il balcone con se stesso sopra, né voglia lanciare oggetti alla sfilata di carnevale. Poi è interessante anche l'ordinanza che dice: attenzione, vietato sporgersi con oggetti che cadendo possono arrecare danni. Sì. Qual è, secondo te, Antonio Albanese, un oggetto che cadendo dal terzo piano può arrecare danni? E qual è un oggetto che non arreca danni? Beh, un vaso di gerani, ma a Palermo non ci sono gerani, una pianta, un vaso comunque, un bambino, cosa può essere? Non lo so, siamo chiaramente su ordinanze un po' folli, ma è gente così forse sola che non ha niente da fare. La cosa interessante sarebbe capire qual è un oggetto con cui ti puoi sporgere che cadendo non faccia danni dal terzo piano. Non lo so, un foglio, un cuscino, una penna neanche tanto. Esatto. La dentiera della nonna che esulta, mi scrive un ascoltatore. Esattamente, sì, un parrucchino. Parrucchino, vabbè. Allora, Upilu, esattamente. Dai, questa era facile. Però Upilu può pesare anche parecchi chili, dipende. Ti prego, esiste un programma sì, che scusami, si occupa di questi temi. Quando finisce Focus Economia. Andiamo sul meteo e la pubblicità, molto ristrette oggi perché al di là di tutto cerchiamo di fare un'operazione che spero invece alcuni ascoltatori apprezzino. Non è facile oggi essere leggeri. No. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti, faccio un breve riepilogo per chi si fosse appena messo in collegamento. Stiamo attendendo la conferenza stampa della Regione Lombardia, la trasmetteremo in diretta. Chiaramente sul numero di casi, 6 casi positivi in Lombardia al coronavirus. Vedo adesso alcune agenzie, poi ognuno lascia il commento, per carità, però certo. Allora, l'uomo rientrato dalla Cina, che potrebbe essere il portatore del coronavirus nell'Odigiano, aveva una sindrome influenzale quando ha incontrato il 38enne che invece l'ha sviluppato a cena. Ora, siccome era rientrato il 28 di gennaio e noi è dal 22 gennaio che raccontiamo del coronavirus, forse, non sta a me dare giudizi, ma forse un pochino, attenzione, o gli stava sulle balle il 38enne o se no... Cioè, prima di andare a cena, quando hai un'influenza, sei appena tornato con un volo della China Airlines il 21 gennaio e tutti stanno parlando di questa cosa, vabbè dai, col senno di poi non si fa la storia, poi andremo a dare altri aggiornamenti, però riusciamo a mantenere, ragazzi, veramente non è facile, però almeno spero apprezzate lo sforzo, il doppio binario dell'informazione serie serissima che sta arrivando e della classifica, che la poco invidiabile classifica della settimana, che come sempre è serie serissima, ma oggi viene condotta. Oggi mi è stata data questo Antonio piacere, Albanese. Una giornata molto particolare, speriamo anche lontanamente di rallegrare un po' in questo delirio, in questa assurda notizia. Allora, vai al secondo al posto. Secondo posto abbiamo deciso, hai deciso, comunque la tua redazione ha deciso, sono tendenzialmente d'accordo, Rimini, artigiano evasore totale, in tasca il reddito di cittadinanza. Il titolare di un'impresa artigiana operante nel settore edile, beneficiario del reddito di cittadinanza, e voilà, è risultato evasore totale. Ma attenzione, a fronte di un reddito annuo non di 830 euro o 1500, ma di 38.000 euro totalmente nascosto al fisco. L'artigiano avrebbe infatti percepito indebitamente, così come scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, 780 euro mensili a partire da aprile 2019. Ma non è solo questo al secondo posto. Al secondo posto c'è un altro, siamo da Rimini, andiamo a Catania, percepivano il reddito di cittadinanza, ma andavano al lavoro di notte nella casa di riposo. Denunciati, ma dai, ti viene sempre voglia di dire, quando senti, sono finiti in galera. Ma veramente? Ma questo è uno sforzo immane. Lavorava in una residenza per anziani a Catania e nel frattempo percepiva il reddito di cittadinanza, un sostegno economico rivolto alle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà. 11 impiegati in nero. Eh sì, purtroppo noi abbiamo aperto una sottorubrica, lo dico con massimo rispetto invece per i percettori del reddito di cittadinanza, sapete che, come la pensa sottoscritto, che è cosa buona e giusta e va ad integrare e aumentare quello che era il reddito di inclusione lanciato dal governo Gentiloni, tardi e con poca dotazione, è cosa buona e giusta, c'è nella maggior parte dei paesi un reddito, diciamo, per contrastare la povertà conclamata, quindi in tutti i casi in cui la persona vive sotto la soglia di povertà, e quindi politica di assistenza pura e di welfare. Continuo a essere completamente contrario al reddito di cittadinanza per la parte che riguarda le politiche attive sul lavoro, tradotto per la parte che riguarda i giovani, i navigator, e l'idea che questi 2000 navigator potranno trovare lavoro magicamente in aree in cui il lavoro non c'è. Il lavoro si crea se le imprese investono anche se si crea delle condizioni di vantaggio, quindi quella parte non funziona. Ma dicevamo dei percettori del reddito di cittadinanza, tra l'altro non c'è solo i carabinieri che hanno sequestrato carte magnetiche Postmat l'INPS dovrà recuperare 32.000 euro dai 7 impiegati che tra l'altro andavano a lavoro nella casa di cura di notte senza aver nessun tipo di formazione e di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non erano mai stati sottoposti a visite mediche per l'idoneità, tant'è che il datore di lavoro è indagato anche perché sanzionato perché avrebbe installato nella casa di riposo un impianto di videosorveglianza senza alcuna autorizzazione e si è beccato 93.000 euro di multa. Adesso andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica e quindi vediamo chi è il vincitore. Qui basta il titolo, qui secondo me basta il titolo. Napoli riapre il parco virgiliano, ma gli alberi non ci sono. E dove sono andati? Sono finiti, sono stati o venduti o non ci sono più. I cancelli aprono lato in punto e c'è già gente da attendere. Finalmente abbiamo riavuto il nostro parco, sorride impaziente Marisa. Il parco virginiano riapre, quattro operatori ASE continuano a raccogliere sacchi di sterpaglie, puliscono i viali, ma tante ancora le aree transennate, ne abbiamo contate cinque, una parte dei bagni è ancora inagibili e quelli utilizzabili solo nella parte bassa del parco e non sono certo in buone condizioni. Riapre il parco, ma gli alberi non ci sono più. Sì, fosse un parco senza alberi. È un parco che obiettivamente perché esiste anche il parco col prato, ma puoi anche ritardare la riapertura. A questo punto vedi anche tu che non ci sono gli alberi, allora, e sono spariti. Manca una delle porte di accesso ai bagni, i servizi, perché forse sono gli alberi, i servizi sono sporchi, il campo di atletica resta chiuso, ci sono ancora da raccogliere sterpaglie, tronchi all'interno e devono essere abbattuti altri alberi. Il comune aveva detto che solo l'anello centrale è percorribile, il resto è un fiorire di transenne. Chiuso l'accesso all'area dell'anfiteatro, la discesa che precede la Valle dei Re, ormai sommersa dalla vegetazione, mancano solo i Viet Cong, i giapponesi, chiusa da più di 10 anni, dove ci sono ancora alberi danneggiati. A parte i bagni off limits, le aiuole verdi brillano al sole, sono appena state tagliate. Sono 100 gli alberi pericolanti, 100, all'interno del Virgiliano messi in sicurezza dal comune. Cioè, voi immaginate portare dei bambini in un parco dove ci sono 100 alberi pericolanti, non uno, 100. E ora sono diventati ceppaglie lungo la passeggiata che affaccia sul mare. I viali un tempo ombreggiati, ristoro d'estate, ora saranno irrimediabilmente al sole. Il comune ha annunciato che continueranno i lavori, saranno piantumati nuovi alberi, spiega l'assessore al verde Raffaele Falco. Con i 5 milioni di euro per le piantumazioni stanziate dalla città metropolitana ripianteremo tutte le piante. Comunque taglio edera da 40 anni, dice Luigi, il giardiniere del comune, che ha 66 anni. Sono l'unico al lavoro sui 4 in carico di Virgiliano. E anche questo è interessante. L'unico che lavora, Antonio, è il giardiniere di 66 anni. Qui c'era un pino alto 25 metri, altri due erano lì vicino, poco distanti. Dove sono i giovani con il reddito di cittadinanza? Dice il 66enne giardiniere del comune, l'unico che ancora va al lavoro sui 4 in carico. No, cioè. E questo è così, è la fine. È la fine. Allora, mi scrive un ascoltatore, lei non capisce, è semplicemente un parco avventura estremo. In effetti anche questo potrebbe avere un senso, altro che i parchi avventura con le foreste. Ma sì, è un'alternativa, insomma. Può essere un'alternativa. Antonio, mancano adesso, i serpenti. Mancano poi, i serpenti. Adesso io nel salutarti ti chiedo però una cosa. Perché poi abbiamo un ospite in attesa appunto della conferenza stampa, un ospite che si occupa di corporate governance e di gestione delle aziende, da questo punto di vista con metodi anche innovativi. Qual è la cosa che quando ascolti la classifica ti lascia più basito e quella che invece dici ma forse non era neanche da mettere in classifica? Ma guarda, in questo caso dici? No, in generale. No, in generale quello che mi lascia sempre basito è, sono sempre un po' anche, cioè io non sono per, io sono anche per il perdono, per tutto, perché si sbaglia e tutto, ma ci sono quelli che si ripetono e non riescono mai, come dire, a ottenere un briciolo anche di, ma non lo so, una piccola punizione, un qualcosa, far capire che non è possibile. Questo mi lascia sempre, sono quelli che si ripetono, così anche in generale, nella nostra economia, nella politica, ci sono proprio quelli che continuano a vivere, a continuare a distruggere e a indebolire le nostre comunità, è questo che mi colpisce sempre. Allora, devo dire, non male l'ascoltatore che dice è un parco diversamente alberato. Parco diversamente alberato. Bravo. Vedi che sono meglio anche di te e di me non ci vuol molto. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Grazie ad Antonio Albanese, adesso grazie, andiamo con un importantissimo esperto invece che ci aiuta a capire anche come stanno gestendo adesso queste nuove sfide le grandi corporate a livello mondiale. Allora, prima dell'esperto però vorrei lanciare il traffico, così poi diamo lo spazio anche all'esperto di capire quali sono le nuove frontiere appunto della gestione aziendale. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, adesso torniamo ai temi classici di Focus Economia, in attesa appunto della conferenza stampa della Regione Lombardia. Ci stiamo occupando di come cambia, al di là poi delle cose, degli elementi contingenti, di come sta cambiando il mondo delle corporate, delle grandi società internazionali presenti anche in Italia, e ci sono nuovi approcci manageriali alla necessità di sinergie interne a un'azienda. Ringrazio quindi il dottor Antonio Girardo per averci raggiunto in collegamento. Buonasera. Che cosa fa lei, Girardo? Io sono un analista delle gestioni integrate. Voi mi chiederete che cos'è l'analisi delle gestioni integrate? Non lo so. Certo so che l'analisi delle gestioni integrate è tutto ciò che si occupa di flussi compensativi tra comparti omogenei e comparti disomogenei, tra le garanzie di ricavo e gli scompensi produttivi. Sì, questo lo so, ma non so che lavoro è, ma lo faccio. Ma sia ben chiaro, l'azienda ci segue, perché lo sa che ogni tanto ci chiediamo, ma io Che cazzo di lavoro faccio? Siamo la seconda azienda in Europa e la quinta del mondo a non sapere che lavoro fa, ma lo facciamo bene, guadagniamo anche molto bene, siamo anche tutti laureati, io ho fatto anche due master, quindi mi sembra comunque il caso di poter dire bene, bene. C'è chi ne ha fatti tre, bene, bene, bene. E poi i vantaggi in un'azienda moderna, le donne. Piacere Antonio, analisi delle gestioni integrate. Piacere Cinzia, garanzia di ricavo. Piacere Flavia, scompensi produttivi. Piacere Roberta, target di penetrazione. La Madonna Roberta, tu sai cos'è? Tra le tre ho scelto una quarta, Jasmine, Troia, lei sa che lavoro fa. Ho fatto di tutto per capire che cos'è l'analisi delle gestioni integrate. Ormai alla fine è veramente confuso e infelice. Per capirlo mi sono imboccato nella strada della ricerca spirituale. Ho fatto anche questo, ho imboccato la strada della spiritualità. Ricordo la prima setta si chiamava Chiesa penitenziale degli apostoli pentecostali per l'edificazione dello Spirito Santo di Dio illuminato dal sangue del divino amore, detta anche Chiesa dell'apnea, e mi sono trovato abbastanza bene. La seconda setta si chiamava la Chiesa del Santo Trapasso. L'idea era quella di trasvolare tutti su Plutone via internet. Bisogna stare tutta la notte davanti al video computando sempre la stessa frase: Plutone ci sentite, Plutone ci sentite. La terza setta si chiamava Chiesa di Maometto, Geova, Cristo, Elohim, Buddha, Shiva e Zoroastro, detta anche Dio è uno solo. Ho fatto presente che non tornavano i conti, mi è stato detto che è molto meglio diversificare gli investimenti. La quarta e ultima setta, quella che viene alla fine di tutte le cose, quella che potrà dare una risposta alla mia domanda, cioè potermi dire che cos'è l'analisi delle gestioni integrate, si chiamava la Chiesa del Grande Spray. Era una multinazionale di vendita di prodotti per la casa. Ci si riuniva in grandi convention sul lago di Varese nel mese di novembre. 300 o 400 persone sulla quarantina, sempre solo tutti maschi. Siamo rimasti chiusi 4 giorni e 4 notti in un albergo, lì mi sono detto: se si mette i voti il suicidio di massa passa all'unanimità. Questo nasce anche un po' da te o da quelli come te che comunque sono bravi esperti in economia. Mi era capitato un giorno di sentire: cercasi analista delle gestioni integrate. Era impossibile trovarlo. Vabbè, meno male che Antonio Albanese ci ha strappato. Ma sì, oggi è arrivata. Ci ha strappato una risata. No, gli ho chiesto, è stato un favore personale che ha fatto il sottoscritto, siccome ogni volta che sento l'analista delle gestioni integrate lavorando da tanti anni in società insomma, abbastanza grandi, e purtroppo non vai molto distante dalla realtà, no, perché delle volte no. Ci metti più a capire che cosa fa che non che cosa non fa. Ci sono tanti di quegli economisti che hanno bisogno di affetto, ma proprio un affetto immenso, per gente sola, molti disperati, anche manager, ma anche manager dice sì, e siamo molti siamo nelle loro mani, tra l'altro, e questo un po' ci preoccupa. Sai, è il mondo dei servizi in cui a un certo momento con la robotizzazione e quant'altro devi inventarti nuovi lavori e soprattutto devi giustificare questo lavoro, quindi certo, non mi ricordo mai l'analista delle gestioni integrate, chi incontra la macchina di caffè là? Lei chi è, la signora? Cinzia, garanzia di ricavo. Poi c'è Flavia, scompensi produttivi. E poi c'è Roberta, target di penetrazione. Che è tutto verissimo. Tra l'altro la cosa curiosa è che noi non stiamo ad inventare niente. Questo. Stiamo in un certo senso, davvero, siamo aiutati quotidianamente. No, a parte gli scherzi. È molto interessante individuare queste cose, perché mi sembra utile, mi sembra interessante, insomma, esaltarle, no? Oddio. E purtroppo, ripeto, esistono anche lavori più complicati anche da capire. Poi spesso quando mi mettono la dicitura in inglese sotto, no, lì divento Vice molto, President, certo, Chairman, certo. Lì divento Vice molto, Chairman, sì. Deputy Chairman, si capisce ancora sì, lì di meno. Antonio Albanese, tu investi in borsa? No, devo dirti la verità, io sto all'economia o comunque a tutto questo come Polifemo allo strabismo, cioè io davvero un rapporto, no, ma devi credermi, sono non ho non passione, ma non è quello, è perché proprio sono un tribale in questo. Di LinkedIn, mi scrive qualcuno. Sì, beh, LinkedIn stimola a scrivere, diciamo, profili professionali. Mi diceva uno di Bill Clinton, cioè addirittura un analista, un vecchio saggio, diceva tutta colpa di Bill Clinton. Perché? Non lo so, sono quelli che dicono tante cose. A Milano, se sul biglietto da visita non hai almeno 3 parole in inglese, non conti nulla. Sì, esatto, anche questo è vero. Se gli spacciatori continuano a esistere. È la roba che cambia. Sì, certamente. Allora, ti chiedevo se investi in borsa, perché adesso vado a fare la borsa e torniamo ai temi più consueti. Resta con noi finché non ce lo stacca, Antonio. Vai tranquillo. A chi mi chiede: ma dove può operare sulla pianta? Non vi preoccupate, tutta questa puntata, che io spero che qualcuno abbia apprezzato almeno lo sforzo di riuscire a essere leggeri. Credeteci, in una giornata che è tutto tranne che leggera, la trovate in podcast, nel podcast di Radio 24, sul sito della radio. e quant'altro. Non è che torna Cetola Qualunque, no? No, Cetola Qualunque adesso è praticamente in un centro di recupero in Sud America, in una comunità veneta che si era insediata negli anni 60, è andata lì a trovare. No, invece torno il 18 aprile su Rai 3 con I Topi, che nella seconda stagione, che amo molto, che io definisco il mio gioiello, è di questa famiglia di latitanti che vive sottoterra in un bunker, e io ho cercato con ironia di trattare queste bestie, questi ignoranti che mafiosi, andranghettisti, camorristi, continua a combattere da parecchi anni ormai. Anche perché tu hai origini siciliane, sono ricordo. Di origini siciliane, e i racconti di mio padre erano quelli di intere comunità che ti costringevano ad abbandonarle, cioè perché non c'era lavoro, perché non, come diceva, un nuovo mangolo occhio per chiagnere, non so, c'era lavoro per disperazione, ed è un racconto che è sempre più attuale, questo che è strano, questo che colpisce, no? Allora, attenzione, c'è la conferenza stampa, scusami Antonio, sta per iniziare la conferenza stampa della Regione Lombardia, vedo le immagini, adesso casomai facciamo saltare GR e quant'altro, però non ancora, intanto tengo la linea io, dico in regia, vi do la chiusura di borsa, -1,22%, Milano -0,50%, Parigi -0,60%, Francoforte -0,40%, Londra. Tra i titoli, oggi insomma, si è venduto un po' dappertutto, Azimut -5,80%, Tenaris -4,40%, Prismian -3,90%, Unicredit -3,90% anch'essa, Fineco -3,30%, Juventus -3%, Biperbanca -2,90% come Moncler e Banco BPM il 2,60%, Lopez e Ferrari, Buzzi Unicem il 2,5%, Ferragamo e Unipol, Telecom Italia +3,80%, Nexi +1,45%, euro su dollaro in questo momento, eccolo qua, a 1,08. Antonio, adesso in realtà sta ancora slittando la conferenza stampa, quindi prendo 30 secondi. A me gli ascoltatori criticano anche giustamente, quindi te ne becchi una anche tu. Ma certo. Dunque, dov'è che ha scritto uno? Antonio Albanese con la sua faccia da pirla ne fa del suo successo. Fa della sua faccia da pirla il suo successo. Cosa gli rispondi? Ma guarda, d'altra parte, nel mio lavoro, io quello che ho scoperto immediatamente, mi piaceva tutto, però devi avere anche, come dire, una fisicità particolare, certo, se avevo una tua faccia, Sebastiano, diventavo probabilmente un attore, un altro tipo io di non attore, fatto neanche quello. Però questo ed è comunque il mio lavoro, io ti ringrazio. Ringrazio anche l'ascoltatore. No, appunto, ti ringrazio all'ascoltatore, però forse è giusto anche così. Allora andiamo sul GR24, è tutto fermo in Regione Lombardia dove c'è la nostra Rosanna Magnano, chiaramente vi terremo aggiornati, 349-238-6666 per SMS o WhatsApp, torna quando vuoi. Io spero grazie di non... a tutti, buon lavoro e grazie a tutti gli ascoltatori per così. Era una oggi promessa che avevamo fatto. Sì, ed è capitato in una giornata molto particolare, davvero auguriamo a tutti questi grandi professionisti che stanno davvero monitorando e controllando quello che sta succedendo in queste comunità, e noi salutiamo tantissimo, abbracciamo fortissimamente queste comunità. Grazie ancora Antonio Albanese, GR24. A voi, belle cose, ciao. Ti sei mai chiesto cosa prova un campione quando vince e uno scienziato quando rende possibile l'impossibile? Si divertono, perché il segreto per superarsi è passione e divertimento. Nuova Kona Hybrid. Hybrid and fun. L'ibrido non è mai stato così divertente grazie alla tecnologia Hyundai Hybrid e al cambio a doppia frizione. Solo a febbraio, tua da €199 al mese con interessi zero e extra bonus Hybrid. TAN 0, TAEG 1 e 10. Anche sabato e domenica. Annuncio promozionale, info e condizioni su Hyundai.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Nella mia azienda ho sbagliato per anni, mi sono fidato di società inconcludenti, consulenti improvvisati. Per loro eravamo solo un numero, quante pratiche inutili e rischiose, abbiamo solo perso tempo e denaro e ci siamo ritrovati soli. Poi finalmente ho trovato la strada giusta. Con Gruppo Finservice al mio fianco, oggi non sbaglio più. Affidati a Gruppo Finservice, oltre 300 consulenti esperti per ottenere subito tutti i contributi che ti spettano. Gruppo Finservice, il partner giusto per i tuoi contributi a fondo perduto. GruppoFinservice.com. Per me il surf è la vita. Si tratta sempre di trovare il momento giusto. Niente mi fa sentire come quando cavalco le onde dell'oceano sotto zero o quando torno a casa, al caldo, nel mio salotto. Questo è il mio momento. Scegli il massimo del comfort. Sostituisci la tua caldaia con una condensazione Vaillant e avrai 7 anni di garanzia in omaggio. Chiama l'800-123-916 o vai su Vaillant.it per chi cerca un momento per sé, soprattutto dentro casa. Vaillant. comfort for my home. Tra le complicanze del diabete, quelle che minacciano la vista possono essere gravi, ma se riconosciute e trattate per tempo possono essere curate. Per fare il punto su prevenzione, cura e prospettive future, mercoledì 4 marzo presso la sede de Il Sole 24 Ore a Milano, appuntamento con Occhio ai Diabete. Una mattina di incontri aperti al pubblico per approfondire tutte le complicanze oculari e visive del diabete. Info su ilsole24ore.com/occhio-diabete. Con il contributo incondizionato di Allergan. Gli speciali di Radio 24. 18:08 minuti, sta iniziando in questi istanti la conferenza stampa della Regione Lombardia con il ministro Speranza, il governatore Fontana e tutti i massimi esponenti della Protezione Civile. E allora iniziamo a sentire la conferenza stampa. Dottor Borrelli, Angelo, capo dipartimento della Protezione Civile, e il professor Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, oltre che al dottor Cagliazzo, direttore generale del settore welfare. Saluto anche tra i nostri ospiti, vedo in prima fila il ministro della Difesa Guerini, il prefetto di Lodi, dottor Cardona, il viceministro Sileri, sottosegretario Zampa, e i sindaci dei comuni che sono coinvolti nella vicenda di cui stiamo trattando e per la quale cedo la parola subito all'assessore Gallera per fare un po' il punto rispetto a quello che ci eravamo detti nella conferenza stampa di questa mattina. Grazie. Sì, grazie. Abbiamo continuato a lavorare in maniera importante in queste ore, dando corso a quell'azione che vi avevamo raccontato questa mattina, e cioè da un lato siamo andati, la prima unità mobile si è recata presso l'Unilever e ha iniziato a fare i tamponi a 120 dipendenti dei 160 che lavorano presso l'area ricerca e sviluppo, e questi tamponi sono in fase di processazione. Abbiamo iniziato a fare abbiamo fatto i tamponi agli operatori sanitari, circa 70 persone, e li stiamo svolgendo anche a tutti i primi contatti più diretti dei primi casi, e che sono, come ben sappiamo, erano per un totale di 149 persone, di cui 70 operatori sanitari e gli altri erano contatti diretti dei pazienti. Abbiamo individuato, rispetto ai primi 6 casi che avevamo evidenziato questa mattina, i 3 li abbiamo, ce li ricordiamo tutti, no? Quindi il paziente 1, la moglie, l'altra persona che sempre di un'età attorno ai 40 anni, che con lui aveva un legame perché faceva parte dello stesso gruppo podistico, e poi invece gli altri 3 che hanno un'età molto più avanzata, tra i 70 e gli 80 anni, si è individuato nell'investigazione un legame, e sostanzialmente tutti frequentavano lo stesso bar, e quindi sì, i 3 anziani, che era un bar molto frequentato dal padre, diciamo, del podista, se così lo vogliamo chiamare, che anche lui frequentava alla fine questo bar, quindi c'è una connessione e un legame. Il rispetto ai tamponi che abbiamo compiuto in queste ore, abbiamo da un lato alcune evidenze negative e dall'altro però abbiamo individuato, questo era nell'ipotesi che si poteva mettere in campo, altre 8 positività, tra cui 5 operatori sanitari, che quindi infermieri e medici dell'ospedale di Codogno, e 3 pazienti. Questo è si poteva prevedere, atteso, anche se speravamo che tutto questo potesse non esserci. Proprio per questo, in un lavoro fortemente intenso e anche complesso e delicato, una cabina di regia messa in campo, presieduta dal presidente Fontana e dal ministro Speranza, con il direttore il capo della Protezione Civile, tutti i nostri dirigenti dirigenti, si è deciso, confrontandoci con gli amministratori del territorio, di costruire una ordinanza con delle misure molto precise che adesso vi verranno articolate e raccontate dal Presidente Fontana e dal Ministro della Salute, che riguarda un'area precisa che è quella in cui afferiscono e si muovono le persone che in qualche modo abbiamo individuato che oggi sono positive al coronavirus, e quindi sono 9-10 comuni, e cioè il comune di Codogno, il comune di Castiglione d'Adda, il comune di Casal Pusterlengo, il comune di Fombio, il comune di Maleo, il comune di Somaglia, il comune di Bertonico, il comune di Terranova dei Passerini, il comune di Castel Gerundio e il comune di San Fiorano. Adesso vi illustreranno le misure che sono state messe in campo. Quello che io posso dire è che il nostro sistema sanitario, come avete visto nell'arco di 3 ore dall'altra conferenza stampa, questa è riuscita a individuare collegamenti e legami, sta facendo uno sforzo importante rispetto ai tamponi che vengono processati, alla presa in carico dei pazienti che risultano positivi, all'indicazione di coloro che devono essere messi in isolamento. Quindi il sistema sta reagendo molto bene, noi stiamo facendo la nostra parte, poi ci sono misure più ampie e strutturate che adesso vi vengono illustrate. Grazie. Restando nell'ambito sanitario, cedo la parola a Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità. A lei la parola, professore. Grazie. Io continuo la cronaca e l'aggiornamento che ha fatto l'assessore, sottolineando come già dai primi momenti ieri sera ci siamo immediatamente raccordati come Istituto Superiore di Sanità, ma come livello nazionale con quello regionale, lavorando assieme per affrontare questo tipo di emergenza. I dati, come sapete, che vengono testati e che risultano positivi presso gli ospedali e i laboratori lombardi, poi vengono validati dall'Istituto Superiore di Sanità, e c'è un continuo contatto tra i nostri tecnici per poter garantire la massima risposta tempestiva e puntuale a questa emergenza. La preoccupazione in questo momento è quella di garantire, da un lato, alle persone che risultano positive e sintomatiche la migliore assistenza, e questo sta avvenendo nell'articolata rete di servizi che la Regione Lombardia ha messo immediatamente a disposizione. Dall'altro è necessario adottare delle misure sempre ispirate al principio di massima precauzione, che ha sempre caratterizzato gli interventi nel nostro Paese durante questa epidemia, per fare in modo che la circolazione del virus venga limitata e venga bloccata. Questo avviene ovviamente prendendo anche alcune misure organizzative, ma avviene anche sensibilizzando molto la popolazione sulle atteggiamenti più corretti da assumere per controllare questo tipo di epidemia. Atteggiamenti che richiedono, come sapete, aspetti di attenzione personale, di igiene personale, richiedono un'attenzione in qualche modo all'aver avuto contatti con delle persone che risultano positive, e in questo senso anche i servizi di prevenzione della Regione Lombardia stanno lavorando alacremente insieme a tutti i sanitari, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, che farmacie e tutto il sistema, per affrontare e fare in modo che le persone che hanno dei dubbi possano trovare una risposta e possano immediatamente in qualche modo adottare migliori comportamenti più sicuri per la loro salute. Ci tengo a sottolineare come le misure che verranno presentate, che sono state adottate, sono tra le misure tra le più avanzate che oggi troviamo nei paesi al di fuori della Cina. Sono misure che sono basate su evidenze, anche di esperienze fatte in alcune province cinesi, e che sono dimostrate efficaci nel controllare, o si stanno dimostrando efficaci nel controllare la diffusione. In questo senso credo che lo spirito è quello di adottare la massima precauzione, ma anche quello di approfondire sistematicamente la catena epidemiologica dell'evento, perché man mano che conosceremo questi eventi ci aiuterà, e li caratterizzeremo al meglio, ci aiuterà anche ad adottare i provvedimenti e a modulare i provvedimenti man mano che le conoscenze progrediscono. Grazie. Allora, stiamo trasmettendo in diretta la conferenza stampa della Regione Lombardia. Devo dare un rapido aggiornamento non positivo. I casi a questo punto in Lombardia sono 14, non più e non più 6, ci sono altri 8 casi, 5 medici e 3 pazienti. Si sono aggiunti 2 casi in Veneto, positivi ai primi test, e poi 3 dei contagiati a Codogno, sarebbero 3 clienti di un bar di Codogno e il figlio del titolare dell'esercizio. Questo per quello che riguarda 4 dei casi. Il figlio del titolare aveva giocato a calcetto con il 38enne, quello che è rientrato dalla Cina, mentre gli altri 3 sono solo clienti del bar e non sarebbero mai entrati in contatto diretto con lui. Sentiamo il ministro Speranza. Strettissimo coordinamento istituzionale, dobbiamo lavorare insieme, unire tutte le forze di cui disponiamo. Ci sono già stati in Europa dei cluster, l'abbiamo visto in Germania con 16 casi sostanzialmente tutti attorno a una stessa realtà aziendale, l'abbiamo visto in Francia, in Alta Savoia, dove attorno ad una scuola c'è stato esattamente una serie di casi che si sono succeduti, ora lo vediamo anche in Italia. L'Italia è pronta, noi avevamo preparato nei giorni scorsi un piano perché era evidente che questo che è accaduto potesse in qualche modo accadere. Ora si tratta di attuare nel modo più efficace possibile il piano che avevamo predisposto. Questo piano ha chiaramente delle immediate scelte che noi dobbiamo compiere, sono scelte che sono anche di natura, diciamo, determinata, sono scelte forti che riguardano un territorio che è stato circoscritto, chiaramente l'assessore regionale ha indicato i comuni di quest'area che noi vogliamo provare a circoscrivere, perché l'obiettivo essenziale che dobbiamo conseguire nelle prossime ore è esattamente circoscrivere quest'area, lavorare perché il virus possa essere trattenuto dentro una specifica area geografica. Per questa ragione stiamo lavorando, ultimando in questi minuti, a una ordinanza che sarà un'ordinanza a doppia firma del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Lombardia, chiaramente con la condivisione totale del commissario per l'emergenza coronavirus, che pure voglio ringraziare, che è qui a fianco a me, Angelo Borrelli, che metterà in campo una serie di iniziative immediatamente con l'obiettivo di circoscrivere questa epidemia. Tra queste iniziative c'è chiaramente la sospensione in quell'area di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura esse siano, la sospensione delle attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione delle attività lavorative per le imprese della zona, anche in questo caso chiaramente noi favoriamo modalità di lavoro che possano evitare la connessione diretta tra le persone, quindi quella del telelavoro ad esempio, la sospensione delle attività ludiche e sportive e la sospensione anche delle attività educative e dell'infanzia. Chiaramente da questo istante c'è, già da stamattina c'è un gruppo di lavoro che è permanentemente convocato, che seguirà l'evolversi di questa vicenda 24 ore su 24 e tutte le decisioni che si assumono sono evidentemente soggette a una continua prova dei fatti e potranno essere evidentemente aggiornate. Io penso che l'Italia in queste settimane abbia dimostrato di essere tra i paesi del mondo e sicuramente il paese d'Europa con la maggiore soglia di attenzione. Siamo stati gli unici a chiudere i voli con la Cina in Europa, io stesso ho promosso, ho chiesto una riunione dei ministri della salute perché ci rendevamo conto che c'era un problema vero col quale dovevamo fare in qualche modo i conti. L'ordinanza approvata stamattina fa fare un ulteriore passo in avanti, cioè noi chiediamo sostanzialmente la permanenza obbligatoria domiciliare a tutti coloro i quali provengono dalle aree colpite da questa epidemia. Io penso che ci siano tutte le condizioni perché il nostro è un servizio sanitario forte, efficiente, dentro un coordinamento istituzionale per affrontare al meglio questa vicenda. Dobbiamo essere anche molto trasparenti, io faccio un appello al nostro sistema anche mediatico, dobbiamo dare le informazioni corrette, giuste, anche il modo migliore di poter affrontare questa crisi è quello di dire esattamente che cosa è conveniente fare, quindi le buone abitudini. C'è stato un decalogo pubblicato pochi giorni fa dall'Istituto Superiore di Sanità che credo possa essere, diciamo, in qualche modo il punto di riferimento. Io penso che l'Italia, lo ribadisco, ha le carte in regola, ha un sistema sanitario che è eccellente, le misure messe in campo in queste ore sono misure molto forti, stiamo facendo tutte le verifiche del caso, stiamo sin dalle prime ore della mattina si è lavorato ad isolare tutti i contatti, c'è una verifica in corso su questi contatti, penso che ci siano le condizioni per gestirla al meglio dentro una massima sinergia interistituzionale. Grazie. Il ministro alla salute Speranza, allora do un riepilogo, i casi a questo punto sono 14 appunto nell'area di Codogno, perché come dichiarava l'assessore alla sanità Lombardo Gallera ci sono 8 nuovi casi rispetto a questa mattina, sempre a Codogno, di cui 5 sono operatori sanitari, 2 medici, adesso sto cercando di riprendere l'agenzia, 2 medici e 3 infermieri dell'ospedale. E poi ci sono 2 casi in Veneto. No, qualcuno mi chiede dove in Veneto, non, le agenzie non stanno battendo risultato. Torniamo alla conferenza stampa. Alberto Borrelli, Protezione Civile. Vigilanza, di sorveglianza e di isolamento di persone che hanno avuto contatti con i soggetti positivi. Qui voglio ringraziare il ministro Guerini e le forze armate per aver ancora una volta dato dimostrazione di capacità di fare sistema e di operare anche per scopi non militari. Le forze armate fanno parte del sistema di protezione civile e hanno prontamente messo a disposizione in questo territorio strutture che potranno essere utilizzate, sono già state approntate per essere utilizzate per le attività di gestione dell'emergenza. Analogo lavoro stiamo facendo anche nelle altre regioni. Voglio ringraziare anche i colleghi delle protezioni civili regionali che stanno operando per sia l'attività di prevenzione nel controllo nei porti e negli aeroporti, per l'individuazione delle strutture che possono essere utilizzate e soprattutto i colleghi della regione Lombardia che sono i primi a doversi confrontare con anche un impegno notevole in termini di assistenza della popolazione. Voglio dire che le misure che sono state adottate verranno poi attuate sulla base di un tavolo di coordinamento che viene fatto a livello regionale e a livello provinciale. Qui voglio ringraziare anche il prefetto di Lodi e quindi noi daremo tutto il supporto anche con le nostre organizzazioni di volontariato alle attività necessarie per il superamento dell'emergenza. Grazie. Grazie dottor Borrelli. Presidente Fontana. Ma io credo di dover aggiungere ben poco, se non che il tavolo di coordinamento regionale è sempre aperto, per cui ogni tipo di novità siamo pronti a reagire con la massima determinazione. Mi sembra di poter dire che la collaborazione stia funzionando molto bene, mi sembra di poter dire come siano stati assunti dei provvedimenti che non devono essere intesi come qualcosa che possa spaventare, ma sono l'unico mezzo attraverso il quale riuscire a bloccare questa possibile epidemia. Credo di poter dire che nei prossimi giorni riusciremo ad avere sicuramente delle risposte e a seconda dell'evoluzione potremo intervenire per modificare o migliorare o ridurre questo provvedimento. Grazie. Se c'è qualche domanda, vedo Bonezzi del Giorno. Sì, salve. Alcune cose. Avete parlato di strutture individuate per, immagino, la quarantena delle persone che non possono fare l'isolamento a casa. Vorremmo sapere quali e dove. E poi chiediamo se queste persone ulteriormente contagiate che sono risultate positive al coronavirus. Avete parlato di medici e infermieri, vogliamo sapere se sono medici e infermieri dell'ospedale di Codogno, tutti e 8, non ci sono medici di base? 5. Non ci sono medici di base, vi è un medico di base che è quello che ha fatto la visita a domicilio al paziente 1, il cui tampone è in fase di processazione, non abbiamo ancora i risultati. Quindi degli 8, 5 sono infermieri e medici dell'ospedale di Codogno e 3 sono pazienti, quindi, cioè sono cittadini. Quindi i casi totali sono 14? I casi totali sono 14. E confermate anche i 2 casi in Veneto? Manca il test. Sono delle verifiche in corso su questo. Un'ultima domanda, perché i nostri ospiti devono rientrare a Roma. Scusi. Non si sente la domanda, vi ricordo che siamo in diretta con la conferenza stampa della Regione Lombardia. In realtà il ministro Speranza diceva di non avere notizie, a noi risulta dalle agenzie che i due casi in Veneto siano confermati, sono risultati positivi al coronavirus e adesso vi devo dare anche una dichiarazione del direttore dell'istituto, del direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Gianni Rezza, però voglio vedere se riusciamo a beccare, a far sentire, scusatemi, anche l'ultima risposta, vediamo chi la darà. Gallera. Io rispondo solo ringraziando fortemente i sindaci dei comuni che da questa mattina ci stanno dando un supporto straordinario nell'individuare le modalità migliori, che si stanno assumendo responsabilità emanando delle ordinanze, l'hanno fatto nel pomeriggio, stanno dimostrando un senso di attenzione alle loro comunità e un senso istituzionale straordinario, e ancora una volta dimostrano di essere la parte più vicina e migliore delle nostre istituzioni. Forse lo siamo anche noi, ma non lo dobbiamo dire, ma io lo devo dire sicuramente degli amministratori. Per quanto riguarda i medici, poi lascio le domande, abbiamo dato indicazioni precise anche ai medici di medicina generale, e cioè intanto abbiamo detto ai cittadini che pensano di aver avuto dei contatti con le persone di chiamare l'112. Abbiamo detto ai medici di medicina generale che se un loro paziente chiama, di essere loro che vanno a casa del paziente a fargli i controlli, se è chiaro che qualora la sintomatologia non evidenzi già la necessità di chiamare direttamente l'112, cioè se un paziente chiama un medico e dice faccio fatica a respirare, ho la febbre, conoscevo quello che è andato a giocare a calcio, chiamano subito l'112. Se c'è un banale affaticamento, allora è il medico che va, e con le protezioni che i medici devono avere, perché sono medici sul sistema sanitario, e noi queste indicazioni le abbiamo dato. Anche qui i medici si sono attivati subito, li ringraziamo, siamo sia il Presidente degli Ordini che i sindacati dei medici di medicina generale sono con noi in contatto in modo diretto e costante. Anche qua c'è un sistema Italia, un sistema sanitario, un sistema Lombardia che nel suo complesso sta reagendo con straordinaria professionalità, dedizione e competenza. Assessore, scusa, aggiungo che tra circa un'ora ci sarà un incontro con il Presidente dell'Ordine dei Medici di Lodi e con i direttori sanitari di tutte le strutture sanitarie e sedi di pronto soccorso, con i tecnici della Direzione Generale Welfare. Daremo delle indicazioni coerenti con le indicazioni ministeriali sul trattamento dei casi e soprattutto sul triage da fare in pronto soccorso. Questo avverrà nel giro di un'ora. Salve. Tonia Cartolano di Sky TG24. Posso fare una domanda, Ministro? Una sintesi, il conteggio che state portando attualmente voi è a 14? Esclusi? No, parli in generale dell'Italia, di quelli che lei sa al momento. Pregressi. Quelli vecchi che stiamo sappiamo. Stiamo parlando dei due cittadini cinesi dello Spallanzani e dell'italiano che siamo andati a prendere a Wuhan. Poi c'è un altro italiano che, come è noto, non ha potuto prendere il volo partito alle 14 dal Giappone per far rientrare i nostri connazionali che sono sulla nave Diamond Princess. Sì. E basta. Al momento questi sono i casi confermati. E i 14 della Lombardia. Una domanda invece dal punto di vista sanitario. Le persone, magari all'assessore Gallera, i medici che sono stati contagiati, che sono risultati positivi, hanno tutti quanti avuto un contatto con il paziente, il primo contagiato? Tutti quanti un contatto diretto? Le persone che abbiamo, le 60-70 che già di fatto erano o dentro l'ospedale o messe in quarantena, in isolamento al loro domicilio, erano tutte persone che avevano avuto un contatto diretto con il paziente. Cioè l'avevano visitato in qualche modo. Esatto, lui è stato due volte in pronto soccorso, un po' qualche ora nella medicina, in terapia intensiva, quindi noi abbiamo, rispetto all'intero numero di personale sanitario dell'ospedale, evidenziato coloro che avevano un contatto diretto. Come le dicevo, era anche atteso, si sperava potesse non esserci, ma il contatto dell'operatore con un paziente può portare evidentemente e a questo. E metta che questo medico, no, questa opera, ma per le persone. Scusi, silenzio, scusi, per no, no, scusate. Scusi. Fai l'ultima domanda sì, e abbiamo chiuso. Sono Giuseppe dai. Di Vittorio della televisione. Sono Giuseppe Di Vittorio della televisione economica e finanziaria Le Fonti TV. Sono qui, ministro. Sono qui. Le faccio una domanda. Lei ha detto che la struttura, che il sistema sta funzionando. Volevamo sapere al di sopra di quale numero di contagi secondo lei il sistema comincia a vacillare, e per l'Istituto Superiore della Sanità, il paziente zero, che è risultato teoricamente presunto paziente zero, che è risultato negativo ad alcuni esami, è risultato negativo al tampone faringeo, quindi al fatto che lui c'aveva il virus in quel momento in corso, o sono stati fatti altri esami e lui è risultato negativo? No, io come ho già detto, non lo dico io, insomma, mi sembra un fatto abbastanza acclamato, le misure messe in campo dall'Italia in queste settimane sono state tra le più alte in assoluto, sicuramente sul piano europeo, ma addirittura a livello globale. Abbiamo persino ricevuto critiche da qualche parte perché avevamo chiuso i voli per, diciamo, misure troppo forti. Siamo gli unici in Europa. Se penso in questo momento, siamo sia sulla questione della quarantena per chi torna, sia sulla questione dei voli, siamo in questo momento gli unici in Europa che fanno queste cose. Io penso che sia giusto, a chi portava dubbi sul piano delle relazioni diplomatiche, anche sul piano delle questioni economiche, ho sempre detto quello che ripeto ora, e cioè che le questioni diplomatiche, le questioni economiche sono fondamentali, ma che la salute in questo momento viene prima di tutto. Scusi. No, facciamo rispondere, scusate, mi ha fatto una domanda, facciamo rispondere. Allora, quello che si ipotizza essere il caso zero è risultato negativo al test, al tampone faringeo, e attualmente stiamo analizzando la presenza di anticorpi. Dal punto di vista biologico sapete che una persona che ha superato l'infezione, non c'è più la circolazione del virus nel corpo, e si vanno a tracciare la presenza di anticorpi che marcherebbe... Come? Li stiamo facendo, credo che nel giro di qualche ora, al massimo domani, potremo avere dei dati. Ok, una domanda sulla struttura. Avete fatto? No, le strutture non ce le avete dette. Scusate, però noi abbiamo degli ospiti che devono rientrare. Scusate, le strutture non ce le avete dette. E l'ordinanza per quanti giorni è valida e quante persone riguarda? Dottor Borrelli. Quante persone riguarda e quanti giorni? Posso, ecco. Le strutture, intanto abbiamo individuato due strutture, una su Milano e una su Piacenza, per 150-180 persone, ma sono totale complessivamente. Abbiamo anche fatto un censimento di altre strutture e di strutture alberghiere, perché sono giorni che io nel comitato operativo, per chi partecipa a quel tavolo sa, ho richiesto alle strutture operative e ai colleghi della regione di avere l'elenco di tutte le strutture che possono servire. Non vi mancherà di capire che quando noi abbiamo bisogno di strutture, come nei casi dei terremoti, noi le prendiamo e le troviamo, e quindi non abbiamo nessuna difficoltà a individuare le strutture di cui avessimo bisogno. Grazie, buona serata a tutti. Allora, è terminata la conferenza stampa, come sentite c'era anche molta tensione, ma era comprensibile. Devo fare il riepilogo in questo lungo speciale di Radio 24. Dunque, la domanda che pongono anche molti ascoltatori al 349-238-6666, come ha fatto il paziente zero a contaminare gli altri se i voli erano chiusi, perché la sfiga che ci vede benissimo, lui è rientrato il 21 e le prime notizie sono arrivate il 22 gennaio. L'altro elemento, do il calcolo per ora, spero che sia definitivo ma dubito, dei contagiati: sono 14 casi positivi nell'area di Codogno, di cui i nuovi 8 sono 5 medici e 3 pazienti, che vanno a sommarsi ai 6 già annunciati durante la giornata, di cui ricorderete che 3 non erano entrati in contatto diretto con il paziente né con qualcuno infettato, ma erano clienti del bar, sono 4, il barista e 3 clienti del bar. Le agenzie continuano a battere, anche se Mento Speranza hanno dato conferma di 2 casi positivi in Veneto. Da quello che mi arriva come informazione, dovrebbero essere in provincia di Padova. Ci colleghiamo prima di tutto con la nostra Rosanna Magnano e poi... Buonasera Rosanna, eccoci. Buonasera, sì. Appunto, abbiamo ascoltato la conferenza stampa, quello che ha sottolineato è che serve uno strettissimo coordinamento istituzionale, ha detto il ministro Speranza, e ha riportato ascolta Rosana, un attimo, ti fermo perché abbiamo sentito in diretta la conferenza di Speranza, certo. Però volevo leggere assieme a te, che sei anche cioè, una nostra esperta di salute come giornalista, poi c'è Nicoletta Carbone, ci mancherebbe. Una dichiarazione resa poco fa, adesso devo trovare perché come immaginate, da Rezza, eccola qua. Allora, il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, ha detto: attenzione, ci aspettiamo in Italia altri casi da un nuovo coronavirus, non lo si può negare, nessuno può escludere che nuovi casi possono verificarsi anche in altre zone. Vabbè, la priorità è individuare subito i focolai. E Rezza dice... questo perché dopo la rilevazione di casi da SARS-CoV-2 a trasmissione secondaria, che mi sembra, e chiedo a te che sei più esperto di me, la novità, cioè trasmissione locale in soggetti non provenienti direttamente dalla Cina, e quindi non è... Allora, intanto il caso zero italiano e non cinese, lo dico a chi mi scrive frasi razziste, ma lasciamo stare, è questo il tema delicato dal punto di vista medico, cioè il Covid-2, la trasmissione secondaria, la trasmissione che arriva a la trasmissione locale che arriva in soggetti che non erano stati in Cina. Esattamente. Adesso il grande lavoro che stanno facendo è proprio quello di ricostruire i contatti che le persone contagiate hanno avuto in tutti questi giorni precedenti alla loro individuazione, e la difficoltà è proprio nel paziente zero, perché non si ha nemmeno la sicurezza che sia lui esattamente il paziente zero. Quindi è molto complicato, molto complesso, però ci stanno provando a ricostruire esattamente tutti i contagi, perché la priorità adesso è circoscrivere questi cluster, come li ha chiamati il ministro, quindi sono focolai che devono essere contenuti il più possibile, e da qui a questi provvedimenti restrittivi. Allora ti interrompo perché purtroppo è arrivata la conferma invece dal governatore del Veneto Luca Zaia, che è giunto a Padova nella sede dell'ULSS 6 Euganea, che i due contagiati, adesso stanno aspettando la conferma dallo Spallanzani, sono due cittadini di Vo Euganeo, uno del 42 e uno del 53, e di cui uno in condizioni critiche in terapia intensiva. Per quello che riguarda gli alloggi militari per la quarantena, in due regioni ci sono scusate un attimo, sto cercando le agenzie, la difesa ha individuato le strutture in Emilia Romagna e Lombardia che ospiteranno, così come è accaduto al centro militare della Cecchignola, circa 200 persone che andranno in quarantena dopo la vicenda dei nuovi casi di contagio. Si tratta di strutture alloggiative dell'esercito e dell'aeronautica. Una è a Piacenza, 130 posti, l'altra a Milano con 50-60 posti. Ti ho interrotto, Rosanna? No, è proprio questo, perché al momento ci sono 250 persone isolate, ma sono in corso verifiche e test su tutte le persone che hanno avuto contatti con i contagiati, compresi colleghi, amici e parenti, e quindi verranno fuori sicuramente altri casi, e in ogni caso servono strutture adeguate che, spiegavano questa mattina, devono avere stanze singole con bagni singoli, e quindi non si può pensare che sia il domicilio privato, devono essere strutture attrezzate in questo modo, anche per consentire alle ASL di fornire un certo grado di assistenza, somministrazione pasti e monitoraggio dei parametri sanitari, insomma. Allora, resta con noi Rosanna, perché vorrei collegarmi con Codogno, dove c'è la nostra inviata Raffaella Calandra, cui abbiamo chiesto chiaramente di avere estrema prudenza e di non fare interviste. So che può sembrare strano, diciamo, interviste, quello che si chiama in gergo giornalistico Vox Populi, quindi di raccogliere interviste per strada, una prudenza va fatta rispettare da tutti, ma noi facciamo i giornalisti. Raffaella, buonasera. Eccoci Sebastiano, buonasera. Dove ti trovi esattamente? Sono nella piazza del mercato di Codogno, nel centro storico di questa cittadina, che forse è anche in questo momento la fotografia più forte rispetto alle altre zone della città di questa sorta di coprifuoco che, mano a mano che scattano le ore, si sta progressivamente rendendo più visibile, perché qui in questo momento davvero sono pochissime le persone che si vedono, c'è qualcuno che gira, ma sono davvero poche, mentre in realtà abbiamo visto arrivando, c'erano i negozi, chiaramente erano molti già chiusi da diverse ore, i bar e i ristoranti, alcuni hanno chiuso le saracinesche davanti al nostro sguardo proprio mentre arrivavamo, come da ordinanza del sindaco. Mentre ecco, arrivando di sicuro colpiva vedere centri commerciali e dei supermercati con i parcheggi pieni, segno un po' anche di una presumibile, diciamo così, scorta che molte persone stanno facendo in attesa di capire per quanto tempo viga questa restrizione che è stata suggerita più che imposta alle persone. Cioè non c'è nessun blocco qui, chiariamolo, anche perché si sono sparse delle informazioni. Fai bene a chiarirlo, cioè non ci sono blocchi come abbiamo visto. Assolutamente, non è come in Cina, non c'è alcun blocco che impedisce l'ingresso a Codogno come a Casal Pusterlengo e negli altri comuni. Ci sono per ora queste ordinanze comunali che hanno stabilito l'obbligo di chiusura innanzitutto ai locali dove vengono somministrati cibo e bevande, quindi bar e ristoranti, poi l'obbligo di chiusura per i luoghi di ritrovo sportivo oppure anche per locali, diciamo così, di divertimento, e per le scuole che però avevano già anche il ponte di Carnevale e quindi erano già, diciamo, erano già nell'area dei giorni di blocco. Dopodiché è evidente, anche soltanto girando si percepisce che ci siano meno persone in giro, alcune farmacie hanno la scritta fuori mascherine esaurite, ci sono in questo momento intorno a me ci sono due camioncini che stanno consegnando la spesa a domicilio, non so se è un caso oppure no, però in una cittadina così piccola forse anche questo è significativo, forse perché non mi sembrano, insomma, è anche una realtà dove potrebbe avere come dire negozi abbastanza sì, no, abbastanza stavo vicini. Riflettendo con te ad alta voce perché dico, okay, tu notavi giustamente da cronista quale sei che i centri commerciali erano particolarmente pieni di nei parcheggi e ipotizzavi che questo potesse essere appunto il preludio a acquisti nell'eventualità di dover stare anche in casa. Anche delle persone che ho sentito telefonicamente me l'hanno un po' confermato. Mi chiedo a questo punto se sia è una riflessione, se abbia un senso andare in un centro commerciale per fare gli acquisti laddove il centro commerciale. Beh, insomma, effettivamente. Cioè non si sa se è peso il tacondo e il buso qua, cioè se è peggio il rimedio del male, perché il centro commerciale per sua natura è densamente popolato, quindi. Adesso voi mi direte dove vai a fare la spesa, e lo so, se hanno chiuso i negozi non è alternativo. Però è anche vero in realtà che cioè, le misure sono state prese, se non si hanno, per ora si stanno facendo i tamponi sulle persone che sono entrate in contatto con i contagiati e ad esempio oggi per molte ore sono stati chiusi nello stabilimento Unilever 120 colleghi della contagiato, del 38enne contagiato, in attesa dei risultati del loro tampone. Però per il resto delle persone, in realtà anche guardandomi intorno, vedo adesso signori che passano, che stanno portando i cani a fare la passeggiata, altri che un po' si aggirano con normali, con serenità, senza mascherine. Ecco, non mi sembra che ci sia una situazione di panico. Bisogno, così rispondo anche a chi mi dice state facendo terrorismo. No, guardi, noi stiamo facendo giornalismo e abbia rispetto anche per il lavoro degli altri. Dopodiché sono d'accordo, invece nessun panico, per favore. Daremo tutte le informazioni del caso e manteniamo anche i nervi saldi. Devo dare una notizia a questo proposito che arriva da Vo Euganeo, in provincia di Padova, dove il governatore Zaia ha confermato due casi positivi e ha appena annunciato che hanno già adottato le misure che a questo punto stanno diventando, ahimè, un protocollo: chiusura delle scuole, degli esercizi commerciali. E adesso si cerca di ricostruire tutte le attività sociali e i contatti che queste due persone anziane, nel senso che appunto uno era del 42, l'altro del 53, anziani insomma, forse quello del 53 no, e queste persone hanno avuto per capire qual è il livello di cordone sanitario da mettere in atto. Ha aggiunto Zaia: sono d'accordissimo, non bisogna diffondere il panico, ma prima regola è l'isolamento. Mentre per fortuna dalla Liguria è arrivata la notizia, l'ho data al governatore Toti, che anche l'ultimo caso in esame a Genova del cittadino proveniente da Hong Kong è risultato negativo, e quindi almeno una buona notizia, una giornata che sicuramente oggi non ha riservato molte buone notizie. Dunque, vedo altre notizie sulla Valdostra, ma sono abbastanza irrilevanti. Allora facciamo così, andiamo sul traffico, poi l'ultimo giro anche per i comuni isolati, li ha annunciati l'assessore alla sanità Gallera, e poi di nuovo Rosana Magnano ed eventualmente Raffaella Calandra. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Anticipo già che poi ci sarà il giro 24, riprenderà la programmazione regolare di Radio 24. I miei rifiuti industriali? Io li metto su un camion e via. Un affarone. Però volevo sapere cosa fai tu, Contini. Ma sai, oggi trattare i rifiuti industriali senza rischi penali è diventata una bella sfida. E se non stai attento, zac! Ma rileggi i giornali. Impianti strani, incendi, manette. Io non voglio grane. La soluzione è la gestione Omnisist. Sì, ma cos'hanno in più? Semplice. Progetti concreti e una posizione indipendente. Non hanno impianti né camion e quindi mi consigliano liberamente il meglio. La sfida si vince con Omnisist. Omnisist. La responsabilità ha un nuovo valore. Omnisist. Gli speciali di Radio 24. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per quest'ultima parte dello speciale di Radio 24. Allora, riepilogo: confermate i due casi positivi al coronavirus a Vo' Euganeo in provincia di Padova. Il governatore Zaia ha detto che sono già state chiuse, le scuole erano chiuse. Anche c'era il periodo di carnevale, se non ricordo male, oggi è venerdì, però chiusura di scuole e negozi. Per quello che riguarda il caso, invece, uno dei due casi è in condizioni critiche, non si sa se il paziente più anziano, quello del 1942 o quello del 1953. Veniamo alla situazione più critica che riguarda tutti, diciamo, i paesi attorno a Codogno, e dopo la conferenza stampa. Per quello che riguarda i 14 casi a questo punto, l'ordinanza annunciata dal governatore Fontana, dal ministro Speranza, riguarda 9-10 comuni, ha elencato fra gli altri Somaglia e Castelgrundo. Sto cercando di darvi anche l'elenco completo, adesso voi potete immaginare quali siano anche la difficoltà nel gestire il flusso di notizie che sta arrivando. Rosana Magnano, 9 o 10 comuni, visto che sono 10, hanno detto 10, quindi hanno parlato di un'azione forte sul territorio, quindi un intervento effettivamente, diciamo, anche da un punto di vista economico abbastanza forse scioccante, perché nel momento in cui si sospendono le attività commerciali, hanno parlato di sospensioni delle attività di impresa con, diciamo, un'incentivazione del telelavoro, un auspicio, insomma, che vengano utilizzate modalità alternative di lavoro, però ecco, non tutti possono farlo probabilmente. Poi si è parlato di stop ad attività ludiche e sportive e tutte le attività didattiche, quindi le scuole, e di fatto si blocca un intero territorio, insomma un'intera area anche economicamente. Questo lo affronteremo, ci mancherebbe, più tardi nei prossimi giorni. Allora, un riepilogo: i primi 6 casi di Lombardi riguardano un uomo di 38 anni, dipendente da Unilever di Lodi, ricoverato in terapia intensiva a Codogno. Le sue condizioni sono leggermente migliorate rispetto a ieri sera, quando si è presentato al pronto soccorso. L'uomo nelle settimane scorse sarebbe andato a cena con un collega tornato dalla Cina, un dipendente della MAE di Fiorenzuola d'Arda nel Piacentino. L'uomo è risultato negativo al tampone, sebbene avesse il caso zero, diciamo, italiano, sebbene avesse una sindrome influenzale quando ha incontrato il 38enne a cena, ed era rientrato il 21 di gennaio 22 dalla Cina, quando noi abbiamo iniziato a dare la notizia del coronavirus. Positiva anche la moglie del 38enne, quello che è stato contagiato, è incinta e in maternità. Suo marito, il 38enne, aveva partecipato negli ultimi giorni a 2 gare di corsa. Positiva anche una terza persona, il figlio del titolare di un bar di Codogno, che avrebbe fatto sport con il 38enne. Altri 3 contagiati sono i clienti del bar, e questa è la parte che riguarda Codogno. Ora, il fatto che il paziente zero non sia positivo a coronavirus, l'ha spiegato bene, se non ricordo male, Speranza prima o chi per esso, può essere che lui l'abbia già superato, e infatti stanno controllando per vedere se ha sviluppato gli anticorpi. E questa era la situazione fino a poco fa, cioè le 6 persone. Se ne sono aggiunte sul fronte lodigiano, per capirci, altre 8, che sono 5 medici venuti a contatto con il 38enne, quella che l'ha presa dall'amico, per farsi capire, che si era recato in ospedale, 5 medici e 3 pazienti dell'ospedale stesso, e quindi porta il numero di casi positivi nell'area a 14. Tra l'altro 3 di questi, adesso devo ribeccare l'agenzia, non erano di Codogno, Castiglione, ma di Castiglione d'Adda. Adesso devo riprendere le agenzie, scusatemi un attimo, ma non è facile. Sospesi tutti gli eventi nell'area, quindi Carnevale Pavese, e questo è il fronte lodigiano, 14, cioè i 6 già raccontati più gli 8 dell'ospedale che si sono aggiunti, 5 medici, 3 pazienti. Poi si sono aggiunti 2 casi in Veneto, ed erano quelli che raccontavamo per quello che riguarda in provincia di Padova. Adesso vi ridò anche la notizia su questo. Nel frattempo vorrei collegarmi ancora di nuovo con Raffaella Calandra. Raffaella, forse tu non hai sentito la conferenza stampa, ma addirittura sono 10 comuni che verranno messi sostanzialmente in isolamento nell'area. Sì, sentivo quanto stava dicendo poco fa la collega. Io di fatto, arrivando per arrivare qui a Codogno, ne ho attraversati almeno 2, direi, oltre a Codogno, perché Casal Pusterlengo e Casale sono tra i comuni che sono stati appunto messi, diciamo, in questa forma di coprifuoco senza esserlo davvero, insomma, con queste misure restrittive. Evidentemente appunto è tutta l'area che è stata individuata in base alle persone che sono entrate in contatto con quelli contagiati. Bisognerà capire adesso, si apriranno ovviamente, questo sarà nei prossimi giorni, diversi fronti. Da un lato un fronte economico. Avremo modo, guarda, non voglio neanche pensarci della puntata di lunedì, però stiamo tranquilli tutti quanti gli altri, perché oggi ne ho avute e anche tu. Allora, Raffaella Calandra, la ritroverete in collegamento nel giro del 19, poi te lo do in diretta l'indicazione, poi rientri in redazione per quello che riguarda la giornata, e poi c'è anche domani. Grazie anche a Rosana Magnano in collegamento con noi dalla regione Lombardia, dove abbiamo appunto mandato in diretta la conferenza stampa. Da Sebastiano Berisoni un augurio di buon fine settimana, soprattutto per a questo punto gli abitanti e residenti delle aree interessate, a cui va tutto il nostro supporto. Ragazzi, la vita va avanti, noi ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi.